chico. Vamos, vamos. E buh, oggi burba di galori. Dai, dai, manda, manda. E beh, Torino, avvisi. Torino. Torino. Torino. Canta, canta, padre. Ehi, Giamari. Pronti. Ehi, padre. Ehi, Giamari, a me intendi. Ciao Mari. Ma la pensi? E si gioca un'ora rispondendo. E boh, non ti sentivo. Cazzo. Cazzo. E cosa fai? Nulla, stavo ascoltando un po' di musica. Prima mi aveva già accesa, ma non venne su. E ancora non venne su. E lì, c'erano quelli lì piazzando il mobile dello stesso, del lavandino. Come il mobile non c'era, l'hanno fatta arrivare e l'hanno piatta a te adesso. Anzi, mi stanno andando, fra 10 minuti rientro, Manuele. E vabbè, dai, tanto già sono lascio acceso, dai. Ehi, d'accordo, sentiamo dopo. Oh yeah, te qua. Musi. Oh yeah, ci vuole bene i galori, te qua. Torino, io ce ne appizzo. Oh yeah, sto goccando il suo Giamari, tutti coricati, tutti a letargo so. Oh, sei seduto in giro sotto il weekend con la bionda, cosa goccati, anche sopra l'ho preso, che se lo succede so? Lagarevi, ho collegato quella piccolina, Giamari, mi ascolti frusciato? Qua c'è fondo scala. Fondo scala? Eia! Andave, pensavo che mi ascoltavi sfrusciato. Ma quale colonna ho fatto lui? No, questa è quella di Bacchisio, quella piccolina, gli ho fatto una massa. Ah, e beh, quella che abbiamo fatto lui non l'hai attaccata mai. No, l'ho attaccata un'altra volta, già va bene, già diceva anche quella. Ah, e beh, che è meglio, uno o l'altro? Secondo me è quella là, Giamari. Quella abbiamo fatto lui? Quella che ha fatto Bacchisio. Oh, vabbè. Ma più grande? È più grande, sì, c'è anche tre radialine, sembra una Grand Prix. Ah, allora, cazzo. Oh, cazzo. Troppo manna, troppo, una cosa di minore andare. Se nel tuo caso è una cosa minore. È piccola questa, Giamari, è piccola quanto è quella lì, solo che c'ha tre radialini. Ah, vedi, io sto uscendo quella con quello che ho fatto io qua. Così che vedo un po' e vado dappertutto. Vabbè, tu sei anche in alto, dai. C'è la possibilità che ci sei anche in alto. Ma sono dentro casa, a parte dietro. Eppure mi sentono tutti. Meglio così, adesso sto usando quella piccola io infatti. Ma dovrebbe sentirci anche Claudio lì, penso io, cazzo. Dovrebbe andare bene perché il segnale è a massimo. Così che come radio dovrebbe sentirti abbastanza bene anche Claudio. Troppo imboscata, Giomari. Ti volevo chiedere, Giomari, mi serve un pezzo di filo più grosso per fare la massa. E se c'hai quelle spinette rotonde per avvitare col bulloncino, come le hai messo nella tua? Non lo so se ne ho di quelle lì. Dovrei guardare il filo, beh, il filo, che filo puoi mettere? Filo di massa, quello giallo. Quello già, perché non ne ho, gli ho messo un filo di autoparlante, ma non va bene quello lì, troppo fine. No, quello è più grosso, sì. Aspetta e guarda se trovo quella specie di morsetti, là. Quella specie di morsetti che metti il bulloncino e rimane attaccato insieme alla massa. Adesso guarda, là. Sì, giovane. Il pezzo di filo quanto te ne serve? Serve, Giomari, un pezzo, come ce l'hai tu, un pezzettino, cosa sarà, ti posso dire 60, 70 centimetri, anche 60, un pezzo che attacca l'antenna al morsetto, capito? Ed è un pezzo con quello lì attaccato, sarà 50, 60 centimetri, sarà. Già va bene, dai, già va bene. Rifaccio la massa sia l'antenna al morsetto, perché l'ho attaccata al morsetto, capito? Al poggiolo. Adesso sotto casa te lo butto dalla finestra, dai. No, ma adesso lascialo lì, Giomari, domani mattina non c'è problema. Giomari. Vabbè, dai. Domani mattina scendo in magazzino e ci vediamo lì domani. Faccio domani. Non è adesso. Non è che ne ho necessità adesso, dai. Domani mattina con calma lo prendo. Sarà una 50 centimetri più, vai. Ti ha attaccato quello lì, stesso. Vai direttamente, metti la vite, è già attaccato al filo, capito? Li metto la vite direttamente, la attacco lì al morsetto. Dacelo, domani mattina. No, domani mattina non ci sono, io devo andare a fare quell'analisi, te l'ho detto. Vabbè, più tardi, non c'è problema. Se non è domani mattina o domani sera, non so. Va bene. Aspetta che ritiro tutto. Aspetta, sto saldando un filo. Cos'è? Sto saldando un filo. Saldando un filo? Sto saldando un filo. E la fila si accende. Ehi, aspetta. Tutti morti. Sono sotto al cuscino, sono Giomari. Carità, ragazzi. Qua, filo di massa non ce n'era qua. Adesso gliel'ho messa, va bene, no? Va bene, sì. Non ne avevi lì filo di massa? Filo di massa non ne avevi? Adesso salti il piatto dell'antenna, gliel'ho messa, capito? Così che non ce n'era, Sull'altro sì, ma qua non ce n'era. Andava. No, ma è uguale, dai, già va bene. Vabbè, senza la massa è meglio, no? Certo. Però devo controllare questo deviatore che non mi quadra. Cazzo. Funziona anche se lo metto alla antenna che all'altro attacco che non c'è niente, si sente ugualmente la radio. Strano, non dovrebbe sentirsi. E allora non devia niente. Non devia niente, Giomari. Se mi senti lo stesso vuol dire che non va il deviatore. Non deve sentirsi nulla quando commuta un'altra antenna. Non mi devia niente. Adesso aspetta, adesso non ce l'è. Prova. Adesso non ce l'è. Non si sente adesso. Sì, si sente ugualmente, ma non c'è l'antenna adesso. Non lo so Giomari cosa va. Io non avevo più trattato di questo deviatore. Ma il tuo così è. provalo a vedere un po'. No, io non ce l'ho collegato, non ce l'ho collegato qui nelle vie VLU, capito? Ah, ecco, ho capito. No, io ce l'ho collegato qua, capito. E beh, ho visto che faccio la comunicazione dove non c'è attenda e la recensione è ugualmente. Ma tu dove l'hai collegata al commutatore? E cioè sia VEU con gli HF? No, questa qua è singola, dove anda solo ai rocchi. Infatti mi sembrava strano che l'avevi collegato col commutatore degli HF. Ah, oh, là cioè, ci sono i commutatori, te l'ho detto che ci sono, certo. E per cui non c'entra questo con questo deviatore, con l'altro no. Con la HF ci sono i deviatori con i professionali, capito? No, io ce l'ho solo collegato, Giovanni, nella Galaxy, il commutatore, basta. Aspetta, adesso te lo mando, quello della HF. Beh, di Galoni, te qua, Bobby. Arrivato c'è. Adesso lo guardo. E lì cosa c'hai, Giovanni? Il PMR? No, questo è il baracchini, sono questo. Ah, gli hai fatto la massa, sì, la massa al coso. E dove gliela hai collegata? Dal commutatore, poi? Allora, ti ho detto che se dalla finestra va là un angolo. All'angolo c'è un vaso di terracotta di quelli che da 70 cm alto, grosso. E in mezzo ci ho messo un pezzo di trafila da 8, è tutto pieno di terra e da lì parte la massa, sia il baracchino e a PMR. Ah, ho capito, è proprio un presio. Ecco cos'è, così che hai visto il deviatore com'è? Sì, l'ho visto. Questo è quello in ghisa. E ti fa quel problema lì? Ah? E ti fa quel problema lì? No, questo io ti ho fatto vedere quello dei baracchini, quello di qua no, non te l'ho fatto vedere. È collegato anche la massa lì, a quella massa del baracchini dei PMR, capito? Ho capito. Beh, manco Fiorellino si sente. Fiorellino si è sbocciato, deve essere. Questo Fiorellino, cazzo. Ho separato. Ma se ne sorgo. È andato in bagno e si è parato. Giomari. Guarda che ti ho mandato l'antenna, quella nel poggiolo, guarda a vedere. Adesso guarda. Sì, carai. Da lì rimetto, dove c'è quella spirale lì, rotonda, lì metto il bulloncino e la massa gliel'attacco lì al morsetto. Già va bene, cazzo è lunga questa, cazzo è un metro e più. Sembra grande da sarà tiro. Ma già va bene, va benissimo. Sto usando quella lì adesso. Ma va bene. Cazzo. E poi se ti senti clavio vuol dire che va bene la tenda. È una e tre, una e quattro, di meno non abbassava. Vabbè, non è tanto che stai ore l'ho attaccato, così che basta fare passaggi brevi e non succede niente. Cosa devo fare? Mezz'ora di gozzo, di passaggio. Appunto, bravissimo. Già, va bene. No, questa che sto usando io, adesso questa che sto usando io è già quella lunga. Ah, quella sul tetto, Sì. A voglia. Ok. Però l'ho cambiata adesso perché ho messo la massa e volevo provare, se no Io esco sempre con quel santinino come quella che c'è in magazzino, guarda. Eia, no, già esce bene, già esce bene, bene, bene, bene. E quella là quando la tiri giù, quella da campagna? Bisogna scendere, Emanuele. Bisogna scendere, io mi ci salgo sull'albero. Poi, cazzo, io vado all'albero, torna, e la finiria. E prendiamo a Giuseppe, facciamo salire a Giuseppe, va. Lui è un gatto, confronto a me. Giovanissimo per cui, bello arzillo. Così che, manco due a Zaffi, no. Perché lui è arzillo, magari è... poi te ne interessa solo la tenda, un bullone, beh. Un bullone, basta bullare e fare subito la tenda, capito? Mi pare già vedere oggi, sono 13, così che un bullone solo, è da fare, boh. E da fare più niente, è un peccato quella tenda, lasciarla lì, così che ne va a fare, magari caso mi bocco visto là. E cosa ne va? Se va la 300, la 30, cosa la buona fa là? Ma poi in campagna non le metto, poi dopo il naso va pure in campagna, salvo che non si fa un portato, ma no, ma con un baracchino accende più, un baracchino per sempre, ma no, non le traccia, che quando va la campagna farò ma travagliando, c'è la metà del baracchino, capito? Vabbè, prima già lo trattava, anche tu mi arrivi. Ma prima in estate mi separavo con cava che dava e andavo alle ferie, capito? E ci arrivavi finalmente a quei residui che dà. Ma là, non saranno. Avrei già fatto la corretta così, cacchi di e basta, capito? No, così che no, ma col baracchino attacco. E mi sarà anche stazionare adesso in quella terra perché ci mancano i radiali, così che mi sarà pure stazionare, non lo so. Dai, torna a farà magari un broma, quindi. Sicuramente ci sarà stazionare, sì. Comunque, se ne la deve, ma anche l'altra antenna toglie. Giudizio che c'era il visivo. Ero fabbricato un fracco di sorso e pure i sassari arrivi almeno non attesti anche a carico di... però non l'ho provato in stazionaria, capito? C'è il rosmetro ma non l'ho attaccato, quando parlo provo a attaccarlo a vedere che altri stazionari mi sono, però la terra del baracchino è un baracchino classico, cosa ne voglio? E io mi fai il 3006, cioè, cazzo, sicché va bene quell'apparecchio, ha funzionato sempre, già di 34 anni sono parecchi vivi. Che sta a voi, è già maggiorenne, Giomari. Infatti, è già maggiorenne, può fare il suo no. Le radio vecchie già vanno bene, se sono trattate bene, le radio vecchie vanno benissimo. Stavo dicendo, ma quando toglie la 50, toglie anche la Mantova? No, perché ha attaccato la 50 è attaccata al tubo della Mantova, capito? Ho capito. A poco compreso. Però c'è una staffa solo, non sono due staffe come... Una staffa solo c'è perché non si sa l'altra staffa, capito? Sì, l'abbiamo messo una staffa solo, beh già la mantieni la testa, capito? Però la butto in terra, magari la staffa la lascia attaccata, ma non perdi tempo. La posso fidare sul bullone attaccata alla tenda e la tenda ne pare, la staffa gliela lascio. Ma se togli anche la staffa, non li busi via la staffa. Tre bie, vediamo un po' attento, Fiorellino, se ci sei batto il colpo. Fiorellino, da sì. Ho coccato, ho giocato con un libudi. Bubu, anche Fiorellino, Fiorellone. Beh, ci l'ha attaccata là il burugato con la zappa in mano, a me se desideri rubare la zappa. A chi ogni volta che passa la zappa, sotto è subito, no? a danza del cancello. Là, il cilaggio acaba a romano con la zappa, le bocce in mano, però fa, senza far niente, se te gli bracciappo io. Vediamo un po' se c'è anche Tore, Bacchisio, tutti in quarantena, Bacchisio, ci si. No, Bacchisio ancora non è arrivato, dopo le 7 magari si fa sentire, però strano, Tore non c'è, Tore, ah che Tore, non si è passeggiato con Lugani. No, mi sa che è Lugani che può andare a Beh, può essere anche, andiamo bene, e Lu? Non so chi è, Lu, per carità, ia, oh aspetta, voglio provare quella portata a vedere come esce. E quale, Giamari? Quella che ti ho fatto vedere. Ah, provala, vedi. Ma in antenna o col gommino? No, col gommino. Anda a vedere. E cos'è che cosa? Non si piace? Cazzo è la selettiva, Ah, beata. Ehi, parla a vedere. Non ti sento, Giamari. Beata. Si sente il bip? Ma che c'è il bip in questo? Anda beh, ma col microfono esterno, C'è anche il microfono esterno questo qua. Ma no, già esce bene. Sei un bombo, cazzo, cosa vuoi, cazzo. È bello, Ma mi intendi tu da un voltato? Aspetta, ti mando la foto. Ehi. No, già vanno bene quelle radio, dai, andane bene. Arrivato, chi è? Ehi, Giomari. Sì, bello. Hai visto? È bello, sì. Cazzo. E poi c'è il display grande, capito? E quello vuol dire molto, Sì. Sì, è bello, sì. Ma cosa c'è questo trovato di uscita? Giomari. Ciao Mari. Fiore, sì. Claudio, sì. Eia. Mi ascolti, sì. A voglia. Cazzo. Ho messo l'antenna nel poggiolo. Quella con i tre radialini. Cazzo, funziona bene, dai. Ecco qua, vedi, mi ascolti? Ehi, ti ascolto, sei 9 più 10. No, ho fatto il PL. C'era il PL che era dentro il tubo dissaldato. Te l'ho detto, bisogna fare manutenzione. Quel tipo di antenna lì, con quel raccordo lì, bisogna fare manutenzione ogni tanto, Bacchi, capito? Se no vuole ben vulcanizzato, se no ti si incasina. Comunque sei fortissimo. Va bene, bene. Grazie Claudio, scusa il disturbo, Ma figurati, siamo qua anche per questo, dai. Un abbraccio a tutti e ci sentiamo, ciao. Sì, no, ci sei.